Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Tecnologia sempre più al servizio della medicina. È il caso del laser verde per l'iperplasia prostatica benigna. Come funziona? A chi è indicato? A Obiettivo Salute il professor Vincenzo Mirone, andrologo, ordinario di urologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana di Urologia. Laser verde vuol dire avere oggi laser sempre più potenti e sempre più precisi in grado di vaporizzare la prostata, cioè mi spiego meglio, oggi è possibile operare la prostata entrando attraverso l'uretra, arrivare appunto prima della vescica e quindi poter vaporizzare la prostata utilizzando delle temperature estremamente elevate, questa punta laser entrando in contatto con il tessuto prostatico lo vaporizza e quindi togliendo e vaporizzando questo tessuto prostatico ovviamente la vescica può svuotarsi con maggiore facilità e quindi il paziente finalmente ricomincia a urinare bene. Se volete saperne di più sulle tecnologie per interventi alla prostata, ascoltate l'approfondimento del nostro esperto sulle pagine di Obiettivo Salute. Con l'arrivo del primo freddo, i nostri bambini corrono un rischio maggiore di ammalarsi di infezioni respiratorie che interessano il naso e la gola. Proteggiamoli allora con il decalogo della prevenzione a cura dei pneumologi pediatri. Tra i consigli, lavarsi le mani, tenere ben pulite quelle dei fratellini, utilizzare preferibilmente fazzolettini monouso, curare l'igiene della casa, limitando il ricorso a spray o deodoranti che aumentano il rischio di inquinamento indoor. E poi attenzione al fumo, anche a quello di terza mano. L'approfondimento del professor Renato Cutrera, presidente nazionale SIMRI e direttore dell'unità operativa di broncopneumologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, lo trovate naturalmente sulle pagine di Obiettivo Salute. E prima di salutarvi vi ricordo che come ogni lunedì, appuntamento sulle pagine del nostro programma con Luigi Sutera, il poeta dello specchio. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto naturalmente in diretta e la diretta di oggi è proprio dedicata a chi si sente sopraffatto da impegni, responsabilità, incombenze, richieste e teme di non farcela. Non abbiate paura, seguitemi, consigli e suggerimenti con il professor Giampaolo Perna. Noi ci sentiamo domani alle 12 quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.